Melog. Cronache meridiane di Gianluca Nicoletti. Seviziato, torturato, stordito con un martello e finito con una coltellata al petto. È la morte lenta di Luca Varani, vittima di una scelta casuale e delirante. Cavia umana di due ragazzi amici da poco, entrambi col vizio dell'alcol e della droga. Marc Prato e Manuel Foffo sono gli assassini reo confessi di Varani. Ieri ai PM della Procura di Roma che li hanno interrogati hanno raccontato tutto di quell'omicidio voluto e pianificato. Volevamo uccidere una persona, volevamo capire che cosa si provava e vedere che effetto avrebbe avuto su di noi. I due raccontano di una scelta lucida, anche se presa nel delirio legato all'abuso di cocaina. Gli è costata circa 1.500 euro, spiegano agli investigatori, ma non ricordano quanti grammi avessero acquistato. Serviva per quel festino e per quella voglia malata di uccidere, ma nessuno in particolare. La sera prima dell'omicidio, raccontano, eravamo usciti in macchina sperando... È fantastico sentir parlare di omicidi altrui. Se così non fosse, questo non sarebbe l'argomento principe di tutte le discussioni, sia quelle pubbliche, quelle ufficiali, quelle televisive, quelle che seguono le cronache dei giornali, quelle che poi si riallacciano al discutere nei social network in cui tutti siamo bravi a giudicare, in cui tutti siamo perfetti conoscitori della materia, in cui tutti sembra che abbiamo la soluzione che non hanno gli inquirenti, che non hanno gli specialisti, che non hanno le persone che seguono i casi. Nulla come l'omicidio, l'omicidio lucido, l'omicidio immotivato, l'omicidio che affonda le radici in quella che noi definiamo follia, ma in realtà affonda le radici nella più totale, radicale e pulita normalità. È l'argomento che più ci fa sentire buoni, ci fa sentire assolti, ci fa sentire fuori comunque dal giro infernale delle persone che si massacrano, che si fanno a pezzi, che si odiano e che si uccidono. Noi siamo sempre buoni, gli altri sono sempre perfidi. Più gli altri mostrano la loro perfidia nella chiave più immotivata, più lucida e più incredibile possibile, più noi ci sentiamo elevarci verso il cielo delle anime elette. Se non fosse così, non saremmo tutti così appassionati di questa sorta di fantacronaca e letteratura realistica che si fondono contemporaneamente e ci danno un'immagine come fosse uno zoom su quelli che sono i rappresentanti più superbi del male assoluto. L'ultimo omicidio, l'omicidio di Roma, sembra proprio tratto da un manuale, sembra la sceneggiatura di un telefilm, di quelli che piacciono tanti, tanto a base di indagini necroscopiche, di serial killer e di schizzi di sangue, di uomini e donne fatti a pezzi. Perfetto. È una realtà che sembra trarre ispirazione dalla fiction, ma la fiction a sua volta altro non è che un'immagine lucida della realtà. Voi direte, noi ne siamo fuori, noi queste cose non le guardiamo, noi anzi prendiamo le distanze, noi non ridiamo. No, non è vero, ne siamo tutti contaminati. Vi ricordo semplicemente che un paio di volte a questi microfoni ho fatto un gioco perfido, un gioco sadico, un gioco indicibile. Ho provato a dire che io avevo la macchina perfetta per uccidere chiunque voi aveste voluto uccidere. Vi ho detto, c'è qualcuno che vi dà fastidio, di cui volete liberarvi, che volete eliminare? Vi assolvo da ogni conflitto di coscienza, da ogni problema di tipo penale, addirittura da dover vedere il sangue di questa persona. Ci penso io, ditemi chi. Beh, avete risposto in centinaia, tutti avete qualcuno da uccidere. La maggior parte di voi non voleva essere fuori dal mio omicidio, anzi mi suggeriva le maniere, voleva assistere a una lunga, lenta e crudele dissezione del corpo della persona che loro odiavano. 800 24 00 24, tra un po' parliamo di omicidio. Melog. Cronache meridiane. Il giornale anche oggi parlano di me e ne parlano bene, del resto con il mio gusto del particolare maniacale, beh, non potrebbe essere diverso. Dunque non si incomodi, ispettore, se le rubo qualche riga di attenzione. Ma anche un serial killer passionale ha bisogno ogni tanto di fermarsi e di spiegare che quelle donne le conoscevo bene, le ho amate tutte quante per davvero. Dovrebbero ringraziarmi 10, 100, 1000 volte per essere stata a modo mio sincero. Mi amerai, dicevano, mi amerai, dai, giuralo, fino alla fine del tempo. E cosa c'è di male? E cosa c'è di strano? Se ho scelto io come finiva io. E quando ya la la la la la la. Questa è la lettera di un serial killer. Vi lascio un po' di suspense. Vi illustro l'immagine che suggerisce questa canzone. Un serial killer si rivolge all'ispettore che lo segue. Il serial killer è nel suo perfetto habitat, che è un po' ispirato alla fiction sui serial killer, che però a sua volta è ispirata ai teatri del delitto, che negli anni, dai tempi di Landru in poi, che bruciava le mogli nella stufetta, hanno creato il luogo principale in cui si svolge l'azione del serial killer. Il serial killer è una persona che gode, prova piacere nell'uccidere, molte volte eiacula, è l'unica maniera che ha per avere piacere fisico, diciamo la verità, se no sembra che lo faccia così per magari per motivi metafisici. Ha piacere fisico. Questo serial killer uccide donne, è circondato dalle donne che ha ucciso, sono le manichini, perché non si vuole impressionare troppo, sono le donne che lo circondano, i cadaveri quasi immobilizzati nell'algido e suggestivo per lui rigore della morte che lo circondano. E scrive al commissario che lo sta cercando, che è disperato, che guarda sulla mappa di tutti i suoi spostamenti la possibilità di cercarlo. E c'è una cosa che si capisce alla fine: il serial killer ha in mano la moglie del commissario, e lei è lì legata, imbavagliata, chiusa in uno sgabuzzino, e mentre il commissario sta per arrivare al suo covo, il serial killer dice: caro commissario, adesso farò qualcosa di veramente straordinario, e si infila dei guanti di gomma bianchi. Questa canzone Serial Killer esce oggi, è l'anticipazione del nuovo doppio album Le cose che cambiano, Le cose che restano, di Massimo Zoara, che è la persona che fa tutte le nostre sigle. Avete presente la sigla del treno va? Se l'ha inventata Massimo Zoara. Massimo, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti e grazie per avermi ospitato. Come ti è venuto in mente fare una canzone sul serial killer? Ma in realtà sono le influenze esterne, no? Quanti anni sono che provi a farla uscire questa canzone? Questa canzone sono più di 8 anni. 8 anni, che non trovavi qualcuno disposto a rischiare di fare una canzone col punto di vista di un serial killer? È infatti quello il problema, no? Quando si entra nel discorso della musica, della canzone, della musica, soprattutto pop, no? Perché il progetto binario è reduce da 5 album, no? Di musica. Le storie pop di sangue sono sempre state molto pop. Molto pop. Dai cartelloni di cantastorie c'è sempre qualche brigante attaccato dai carabinieri, fatto a pezzi, impiccato. Sono sempre pop. Le storie di sangue sono quelle che servono alla gente per mantenersi coesa di fronte a un pericolo esterno. È vero. Poi però quando il soggetto cambia e quindi l'autore o il compositore inizia a scrivere una canzone, come in questo caso, d'amore, ma non per se stesso, e decide, sceglie che a scrivere la canzone è un serial killer, le cose cambiano, sono cambiate davvero. Ecco, tu tocchi un punto molto doloroso e molto difficile, perché il serial killer o è il mostro. Io vedo l'ascoltatore che già mi ha mandato 7 volte lo stesso messaggio, il cui numero di telefono comincia per 349, lo dico così almeno a qualche brivino che possa richiamarlo, che mi scrive soltanto: erano froci. La sua frase, la sua sintesi, l'essenza della sua elaborazione di quello che stiamo dicendo oggi è: erano froci. È importante per lui essere assicurato che i protagonisti dell'ultimo delitto di cui si parla tanto, romani, erano froci, quindi è messo a parte. In realtà, il tuo serial killer è tutt'altro che froce, se poi vogliamo dirla così. Sì, il mio serial killer sembra che sia tutt'altro che frocio. In realtà è lo stereotipo di un serial killer, no? Quindi quello che scrive necessariamente all'ispettore, perché lui comunque prova piacere ad informare le persone che lui sta compiendo un atto di violenza. E quindi poi dopo le sue vittime, no? Le sceglie e le prepara. E lui dice di essere innamorato, che è la cosa più atroce e più perversa. Sì, e lui dice: mi amerai, dicevano, mi amerai, giuralo, fino alla fine del tempo. E poi cosa c'è di male? E lui ha accorciato quel tempo perché fosse veramente certo. E cosa c'è di strano se ho scelto io come finiva e quando? Pensa alla frase atroce, la giustificazione, dallo stalker all'infame che picchia la fidanzata e la moglie, c'è sempre un atto d'amore. E la donna crede che sia un atto d'amore. In fondo è convinta, questa estrema attenzione, nell'estrema generosità che hanno le donne, sia un atto d'amore. Questo serial killer ha il problema che è anche un bell'uomo. Sei te che fai il serial killer? sì, sembri figo quasi nel film, diciamo la verità. Meno male. No, sembri, perché deve essere bello. Perché ormai si sono cambiati. Siamo abituati ai serial killer belli, non sono più dei mostri. Hai ragione. Putrefatti, devono essere tutti belli. È così, il serial killer ha una sua immagine. No, ma sono cambiate anche il modo di approcciarsi a questi temi. Ad esempio le criminologhe, no? Sono bellissime. Non so se hai notato. Sì, sono belle, sono diventate personaggi. Le criminologhe che erano... Gabriele De Filippi, l'omicida della povera insegnante torinese che sperava che finalmente nella vita aveva trovato il grande amore, che era un essere iperperverso, plurimo nelle sue manifestazioni. Sì, dai protagonisti del caso romano, sono tutti uomini bellissimi comunque. Certo. Noi eravamo abituati al serial killer, il mostro putrefatto, quello di venerdì 13, certo, di Halloween, cadaveri camminanti, esseri ai margini. Oggi il serial killer è bellissimo. Quindi per questo c'è questa attrazione, come sempre stata, perversa attrazione, ciò che rappresenta l'erotismo e ciò che rappresenta la morte. Dottoressa Anna Maria Casale, buongiorno. Buongiorno. Allora, dottoressa Casale, l'ho fatta ascoltare di questa nostra introduzione, potrebbe sembrare fuori dagli schemi. È psicologa, criminologa, autrice di due libri, Profili criminali e psicopatologici del reo, editore Maggioli, Vittime di crimini violenti, Maggioli editore. Il punto di vista dell'attuale moderno e contemporaneo serial killer è molto cambiato rispetto a quello del passato, perché oggi abbiamo questa tendenza che ci porta a una spietatezza immane, che forse mai esistita nella storia dell'umanità, ma siamo esseri mediatici, nel immedesimarci in esseri belli, perversi, fantastici e crudelissimi. Sì, sicuramente. Allora, il serial killer, così come tutti un po' i criminali, diciamo tra virgolette, mediatici e quindi diventati poi famosi nel senso conosciuti all'opinione pubblica, hanno sempre riscontrato grandi poi successi, anche tant'è che ci stupiamo sempre di fronte anche alle lettere d'amore che arrivano per esempio in carcere, no, a queste persone, perché suscitano comunque la curiosità e l'ammirazione di persone altrettanto deboli che ricercano in queste persone che ai loro occhi sono grandiose, perché commettono comunque degli atti al di fuori del normale, al di fuori del consueto, e quindi sono fortemente anche corteggiati. Ecco, il serial killer in particolare ha sicuramente delle caratteristiche proprie che rientrano in degli schemi che si allontanano però un po' da quelli che sono i fatti di cronaca attuali a cui ci si accennava, anche quello di Roma assolutamente. Sì, diciamo c'è una bifurcazione. Il serial killer molte volte è anche difficile. Si individua il serial killer quando si mettono in contatto alcuni omicidi che hanno una matrice comune, dice forse è una stessa mano, poi si scopre che c'era il serial killer, che ne abbiamo di storici, ma qualche anno che non si presentano però i serial killer. Non so se questo significa che ancora nessuno ha messo nella stessa sequenza alcuni delitti, o comunque è cambiato un po' il genere. Quelli di cui stiamo parlando, gli assassini banali questi giorni, è qualcos'altro. C'è una chiave, c'è un'accezione più contemporanea rispetto a delitti del passato, rispetto a questi due casi che ho citato, l'omicida di Gloria Rosbuck e i ragazzi romani della vicenda, che sta facendo tanto arrabbiare. Mi spiega lei, scusi, che ha qualche strumento sull'analisi del profondo più raffinato del mio. Com'è questo ascoltatore che mi scrive erano froci, adesso mi sta dicendo richiamami stronzo, erano froci, ci vuole la pena capitale? Perché tutto questo arrabbiamento sul fatto che questo ultimo delitto sia svolto in un ambiente comunque ispirato all'ideologia queer, all'estetica queer, questo organizzava feste a sfondo omosessuale? Perché c'è questa ulteriore rabbia e cattiveria? Questa rabbia si spiega col fatto che noi generalmente, per tutelare noi stessi e per sentirci non diversi, tendiamo a etichettare gli altri in maniera da sentirli comunque diversi da noi, per cui questo serve a tutelare. Quindi questo ascoltatore probabilmente si mette i tacchi a spillo quando è nella sua solitudine di casa e adesso è così arrabbiato verso di noi. Ma questo ovviamente la cosa fondamentale è dire che quelle persone che riescono a compiere questi delitti tanto atroci sono qualcosa di diverso da noi, per cui etichettarli come froci, come drogati, come alcolizzati, come qualsiasi ci rassicura cosa che non siamo noi, dare esatto un'etichetta diversa e comunque mostruosa che è diversa dalla nostra apparente, e sottolineo apparente, normalità. Si ricorda lei, dottoressa, quando il professor Andreoli fece la prima perizia su Pietro Maso, disse esattamente come, no? Come noi, è una persona normale. Si scandalizzarono tutti, si strapparono le vesti, come una persona normale. Oggi mi sembra che questa tesi sia quanto a me accreditata. Persone normalissime, oggi scrive Selvaggia Lucarelli, dal profilo Facebook non si capisce che questi erano assassini, non si capisce nemmeno dalla faccia. Ma infatti non si capisce dalla faccia, né tantomeno si capisce dai comportamenti, anche perché chi li conosceva e li ha frequentati in precedenza, e li ha frequentati probabilmente in maniera sommaria, ma comunque li ha conosciuti, dice che erano persone assolutamente, ecco, tra virgolette, normali come noi. È ovvio che tutto questo però si iscrive in un quadro psicologico particolare, nel senso che Pietro Maso, così come queste persone, sono soggetti normali, nel senso che non possono essere ritenuti incapaci di intendere e di volere, quindi hanno una capacità, insomma, che rientra nella normalità e non nella patologia, non sono né infermi né semi infermi di mente, ma sicuramente hanno dei tratti psicologici che si scrivono all'interno della narcisismo, quello sicuramente, e hanno dei tratti antisociali. Allora ci fermiamo solo un istante, dottoressa, che mi stanno facendo segno che devo dare la linea e già sono un minuto fuori. Per Max Zoara ho una domanda, un ascoltatore dice: ma c'era proprio bisogno in questo momento di una canzone sul serial killer? Pensa alla risposta, ma tra un istante la diamo. Melog, Cronache Meridiane. L'ultima condanna a morte l'ho eseguita nella mia immaginazione qualche giorno fa, dopo che un signore ha pensato bene di avere un diverbio con me in macchina e di uscire dalla macchina con una pistola. Ma lo sai chi vorrei vedere morto? Sindaco della città di tutte le mattine da 8 anni che lui è al governo, ogni volta che vado al lavoro mi becco un'ora di fila perché c'è un semaforo inutile. Invece di toglierlo, cosa ha fatto? Ci ha messo la telecamera per fare le multe automaticamente, ha accorciato la durata del giallo in modo che becca tutti. Maledetto. Sono soltanto 2 ascoltatori, banalissimi, normali, pacifici e umani ascoltatori di questa trasmissione, che nella foga di darmi in commissione di uccidere qualcuno mi fanno uccidere persone per banalissime vicende: chi il vicino di casa, chi il sindaco che mette semafori con il rosso che arriva subito, ma un'infinità. Un altro perché addirittura c'aveva il cane che abbaiava la notte, voleva che lo uccidessi; altri volevano che uccidessi mariti o mogli, ma sempre attraverso tormenti, suggerendomi le maniere con cui uccidermi. Ricordo ancora un signore che sentiva cornuto della moglie, immaginava una sorta di stupro multiplo di gruppo in cui lui avrebbe dovuto assistere. Ecco, questi erano i sentimenti riaffioranti da persone normali. 800 24 00 24, oggi parliamo dell'omicidio nella sua realtà, nella sua rappresentazione. Laura, buongiorno. Sì, buongiorno Gianluca. Volevo dire semplicemente, un po' provocatoriamente, che non ci vedo niente di così scandaloso nel pensare che persone come quelli, come protagonisti dell'omicidio di Roma, siano diversi da noi, perché semplicemente, diciamo, tra il pensare virtualmente un omicidio e il farlo c'è un salto quantico di cui la scienza ancora non ci dà ragione, non ci dà spiegazione, nel senso che la mancanza di intelligenza emotiva, così come Goleman l'aveva definita, cioè questo azzeramento praticamente del capire le emozioni degli altri, ecco, questo azzeramento qua, che è la causa, credo, anche di questi delitti così efferati e di tanti altri, ecco, questo azzeramento qui la scienza non ci dice ancora il perché succede, perché può accadere, diciamo, che io, diciamo, consapevolmente progetto un omicidio, come nel caso di Roma, può accadere che in un istante... Io ho pensato un'infinità di volte, persone hanno fatto molto male. La maniera per elaborare questa rabbia era sognare, pensare ogni sera, dico adesso come lo ammazzo, lo vado ad aspettare sotto casa, mi nascondo. Ma non, lo confesso, l'ho pensato tante volte in faccia a star bene, ma non l'ho mai fatto. Certo, ma infatti questa è la differenza tra, voglio dire, chi non farà mai un'azione di questo genere, chi non farà mai, che non si può dire, e chi invece lo fa. E appunto questo salto quantico, questo azzeramento dell'intelligenza emotiva. C'è da dire, Laura, una cosa però: una volta che uno fa questo salto, me l'hanno detto specialisti, entra in un tempo epico. È una cosa, una volta superata questa frontiera, uno si sente talmente ormai al di sopra del bene e del male, che è molto facile che lo ripeta. Mi diceva sempre il professore Andreoli, che non ha mai conosciuto in vita sua e ha fatto centinaia di perizie su omicidi e serial killer, uno veramente, sinceramente, profondamente pentito. Livio, buongiorno. Buongiorno a lei. Non so perché ho perso l'ultima parte della trasmissione, perché ho avuto altro da fare. Non so se è ancora pertinente il mio intervento. Lo faccia comunque. Fermo restando che sono un uomo di 65 anni, un cardiopatico, cardiomiopatia dilatativa, in attesa di trapianto, via dicendo. Ieri, proprio ieri, in auto, ho trovato una persona, un ragazzo giovane, no, che ha fatto una manovra che ha rischiato di far fare una carambola alle auto mie e di altre persone. Mi sono limitato a lampeggiare, visto che ero dietro di lui. Questa persona è scesa dall'auto, ha inveito, mi ha messo le mani addosso, e vi dicendo questo per arrivare brevemente a dire che ho subito una violenza tale, che una violenza tale non ho potuto reagire per via della mia condizione fisica, perché non voglio entrare in queste rogne, ma in quel momento proprio, quando poi ci siamo lasciati, io ho desiderato di uccidere quella persona. C'è presente il film di Alberto Sordi? Se in quel momento io avessi avuto una persona che mi diceva, come lei ha detto di aver fatto, di avere buggerato le persone dicendo che aveva inventato la macchina perfetta per uccidere, beh, io sarei stato un utente di quella macchina perfetta, perché in quel momento, per la prima volta in vita mia, ho desiderato di uccidere una persona. Avrà avuto 23 anni, 24, non di più, uno che gira con l'auto come se fosse un'arma. Probabilmente era anche sotto cocaina, come oggi la maggior parte delle persone aggressive stanno al volante. Liceo si ricorda il finale del Borghese Piccolo Piccolo, quando, dopo aver ucciso l'assassino del figlio, viene anche lui preso in giro, maltrattato con la sua bianchina da impiegato, da un bullo di strada, e comincia a riseguirlo, perché lui sa benissimo come, una volta che ha ucciso, continuerà a uccidere. Dicevo, Massimo Zoara, ricordo che è l'autore della lettera del serial killer, che oggi è per la prima volta disponibile anche sul sito di Radio 24, c'è il video e potete vederlo, e così vi rendete conto che stiamo parlando. Come rispondi all'ascoltatore che dice non c'era proprio bisogno? No, in realtà io e Danilo Mangano, che è autore con me da sempre del progetto Binario, avevamo il bisogno e l'esigenza di scrivere questa canzone. E poi adesso mi spiego anche perché ci ha messo 7 anni a uscire, perché questo era il periodo giusto per farla uscire. È in questo periodo che sono saltate quelle leggi, credo, mi sembra, dove il violento ha come percorso una famiglia difficile, oppure ha subito abusi sessuali. Il caso di Roma, non mi sembra che questi ragazzi avevano queste caratteristiche, eppure si trasformano in killer. Quindi è come hai detto tu, adesso è il protagonismo del killer, no? La voglia di provare e di vedere cosa c'è al di là di quella linea, di quella linea grigia che ti fa passare dall'altra parte e superare il limite. Allora, Anna Maria Casale, ricordo, psicologa e criminologa, autrice di vari libri proprio sui profili criminali. Quanto conta nel criminale, sia quello seriale sia questi criminali forse occasionali, o perlomeno facilmente entrate nel mondo del crimine, poi l'aspetto della celebrità che dà loro questo gesto, il fatto di essere comunque protagonisti delle cronache, aumenta la consapevolezza aver fatto qualcosa di epico, oppure è soltanto un fenomeno legato alla contemporaneità in cui tutto esplode e diventa un caso? Allora, diventa importante quando parliamo di serial killer, nel senso che il serial killer gode molto spesso anche nel sentir parlare di lui alla televisione o sui giornali, e questo fa sì che egli senta sempre più forte il bisogno di far del male e far parlare di sé, anche attraverso la sfida proprio alle forze dell'ordine, un po' come si diceva anche prima. Questo serve proprio per attirare l'attenzione a sé e fare questo braccio di ferro con le forze dell'ordine, per far emergere la propria astuzia, la propria intelligenza e quanto il proprio comportamento possa essere difficile da scovare, insomma, alle persone che sono sulle sue tracce. È esattamente la traccia della canzone di cui parlavamo. Sì, perché addirittura la sfida al suo persecutore, che è il poliziotto, arriva, sì. Gli ha preso la moglie, gli va a colpire l'affetto più personale, più sacro. Questa è assolutamente una delle caratteristiche proprio di alcuni serial killer. In viceversa, quando parliamo di casi di cronaca come quelli appunto ultimi di Roma, in quel caso non possiamo considerare questo. Quelli sono dei gesti, purtroppo, anche se premeditati, ma sui quali non possiamo valutare l'aspetto che poi sarà successivo, e quindi quello mediatico, quello che di cui si parlerà successivamente. L'esempio di Gabriele De Filippi, l'omicida di Gloria Rosbach. Era un fantastico manipolatore, uno che era capace comunque, l'avrà fatto per profitto, l'avrà fatto per estorcere soldi, però aveva la capacità di un venditore di aspirapolvere nel millantare il suo presunto fascino, o anche effettivo fascino. Sì, ci sono assolutamente persone che poi compiono questi tipi di reati, che hanno una capacità incredibile di manipolare le persone a proprio vantaggio. Questo sicuramente, Gabriele era sicuramente uno di questi, anche a detta di chi lo conosceva molto bene, e questo tipo di capacità, se così vogliamo dire, manipolatoria, rientra anche un po' in quello che è l'aspetto narcisistico di cui parlavamo prima, e cioè la capacità di portare vantaggio a sé, di fare in modo che le persone possano agire per portare a sé un guadagno, un vantaggio di qualsiasi tipo, e sicuramente hanno un'abilità molto molto forte, perché poi le persone che si fidano di questi soggetti non hanno alcun dubbio, cioè credono ciecamente nella loro buona fede. Prende anche persone però con evidenti situazioni di inferiorità rispetto a lui, una signora attempata, non bellissima, sola, non probabilmente oggetto di seduzione da parte di tante persone nella sua vita, improvvisamente non gli sembrava vero che un bel ragazzo si occupasse di lei. Gli piace anche questo vincere perché, facile, chiaro. Sì, ma questo perché poi sono persone anche estremamente intelligenti, per cui sanno perfettamente dove andare a cogliere nel segno. È ovvio che in questo caso c'è una collusione involontaria tra vittima e carnefice, perché comunque c'è da un lato sicuramente una persona che sa come agire e manipolare, dall'altra parte una persona fragile e quindi facilmente manipolabile. Pino, una battuta. Pino, buongiorno. Buongiorno. Sì. No, una battuta. Cioè, io penso che va bene i serial killer, che sono persone che sono comunque spostate, che hanno dei problemi mentali notevoli, ma io credo le persone normali, io almeno nella mia esperienza personale, e non sono un agnellino, però cioè io non mi sono mai sognato, sono cacciatore, ho le armi, ho a che fare continuamente con armi potenti. Lei si sfoga coi passeri, ci credo che non c'ha. No, ma non è che mi sfogo coi passeri. Guardi, hanno dato fastidio a mia moglie qualche mese fa, un ragazzo, io l'ho preso attaccato al muro, ma non mi sognerei mai. Beh, una persona è una persona civile, sa che ci sono altri strumenti, che mettere le mani addosso a una persona è sempre un rischio, anche da tutti i punti di vista. Civilmente uno dovrebbe seguire altre strade. Sparare poi a una persona perché dà fastidio alla moglie passa alla parte del torto. Attaccarlo al muro magari può ancora farlo, se basta, se poi non basta passa la denuncia. Di impedirgli e di fargli capire che non lo deve fare. Anche in modo deciso. Sì, ma fa bene, perché guardi, la maggior parte delle persone si approfittano di donne, nel senso le infastidiscono, giocano sul fatto che non ci sia un uomo dietro a difenderle. È tristissima questa cosa. La donna vuole avere una sua dignità al di là del suo custode, però è così. Quando vede che c'è un marito, c'è un amante, un fidanzato o un uomo che comunque ti può spaccare la faccia, fanno subito retromarcia. Ci fermiamo un istante, a tra poco. Melog, cronache meridiane. Come fa a decidere di ammazzare un innocente? Un innocente? Chi è innocente, Wayne? Tu lo sei? Innocente? Ah sì che lo sono. Di omicidio lo sono certamente. Beh, penso che tutti hanno qualcosa nel passato, qualche segreto, un orrendo peccato tenuto nascosto. Un sacco di gente là fuori è già morta e non lo sa, e ha bisogno di essere liberata. E a questo punto arrivo io, il messaggero del destino. Se un giorno un chicco di grano cade nel terreno e muore, non è poi così grave. Ma forse morendo, lui porterà con sé molti frutti. E cos'è questa, mi scusi? La teoria per cui ognuno di noi è un assassino potenziale, intende questo? Un lupo non sa perché è un lupo, un alce non sa perché è un alce. Dio li ha fatti così e basta. Tutti quanti hanno il demonio dentro, ok? Il demonio vive dentro di noi. Lui... Questo è un dialogo da Natural Born Killer. Sembra andare sulla stessa linea dell'ascoltore. Mi scrive Gianluca Caro: quando avviene l'omicidio per volere del dio del male, Lucifero. Giacomo da Caccure è convinto sia dietro Lucifero, ma anche padre Amort sta dicendo c'è, cioè, dietro il diavolo, c'è sempre la coda del diavolo quando succede qualcosa di brutto. Raffaele, buongiorno. Buongiorno Gianluca. Sì. Pensavo al gioco che lei proponeva e secondo me c'è una grossa differenza. Sì, lo faccio nei 2 o 3 anni, ma è sempre lo stesso risultato. Ma io anche vorrei partecipare, però come tutti gli altri ascoltatori abbiamo subito un torto. C'è qualcuno che ci ha fatto male, per cui vogliamo fargli del male a nostra volta. Queste due persone di Roma l'hanno fatto per il puro piacere di farlo. Guarda, appena mandato, mi ha scritto su WhatsApp una mia amica, mia suocera, che non ha fatto nessun altro torto di essere sua suocera. Quindi il limite del torto è molto diluito. Torto è anche una persona che ci, la sua esistenza, la sua presenza ci crea dei problemi alla nostra felicità. Sì, forse diventa... A questo punto uno diventa un padre eterno, cioè decide della vita e della morte di un altro. Ma chi uccide si sente un padre eterno, se no non ucciderebbe. È un atto epico. Omicidio a sangue caldo e omicidio a sangue freddo. Sì, sì, sì. Sono... Allora, il signore cardiopatico assalito da un bruto sì. Ingiustamente è chiaramente un gesto di difesa estrema. Solo la sua civiltà. La sua grado di civilizzazione lo frena. Se avesse avuto un blocco a sterzo in mano gli avrebbe dato in testa probabilmente, o forse no. L'omicidio premeditato, non voglio entrare, non voglio fare le analisi, non voglio fare il teatrino di Bruno Vespa alla radio, non so esattamente come si è svolto, comunque c'erano delle circostanze additive, tra cui anche la droga, che non è qualcosa da sottovalutare, che rende difficile anche la consapevolezza. Raffaele? Ha parlato su Roberto. Buongiorno. Sì. Io volevo soffermarmi su un'analisi su quello che è il contesto sociale in cui si è sviluppata la psiche dei protagonisti sia del diritto di Roma che del diritto Barros. Sì. Qui stiamo parlando di persone con problemi ad affrontare la propria sessualità, in questo caso la propria omosessualità, e in questo non possiamo togliere una colpa della società civile italiana. E io credo che sia evidente che tutti i protagonisti abbiano dei problemi con se stessi dovuti in rapporto alla società. Sì, questa è una lettura che si sta facendo, bisogna vedere bene il quadro, non escludo nemmeno che il caso del Litto in Roma ci sia un'accentuazione dell'erotismo che va sempre verso una deriva sadomasochistica che può esserci in alcune parafilie anche questa cosa qua, però non sono un esperto e non so dirlo esattamente se è così, però sì, in questi due delitti se li mette a confronto sono persone che comunque hanno un rapporto abbastanza conflittuale con la propria affettività e con la propria sessualità, che non è il caso però del serial killer raccontato da Massimo Zoara. Mi dici come te lo sei visto te questo personaggio nel suo rapporto col poliziotto, perché questa donna di mezzo fra questi due uomini che alla fine è l'oggetto del contendere. Beh sì, questa è la provocazione estrema del serial killer, no? Che dopo aver scelto le sue vittime, l'ultima nel caso del videoclip è proprio la moglie dell'ispettore, no? Il massimo della provocazione adesso. Beh, sì, ma in un rapporto arcaico fra maschi, naturalmente, certo. Nel duello, lì è un duello a due, poliziotto e guardia e ladro, non è un ladro, assassino e poliziotto, il massima sopraffazione è entrare proprio e rubarti la donna e avere un atto con la tua donna. Il serial killer, l'atto d'amore, il serial killer è uccidere, certo. Non è che gli violenta la moglie come si potrebbe pensare, la uccide. Infatti lei è bellissima, legata, imbavagliata. Lui le toglie il bavaglio e si infila quel guanto di gomma. Poi dopo il finale non si sa. Tu non lasci. Beh, il finale è abbastanza intuibile. Dici? Beh, quando un serial killer si mette il guanto di gomma. Però lui sta arrivando. Non è se lo mette per lavare i piatti, se lo mette per compiere il suo lavoro. Il poliziotto sta arrivando, vogliamo sperare che anche nel racconto del serial killer di Massimo Zoara ci possa essere un lieto fine. Il filmato lo vedete tra qualche istante, anzi è già online, nel sito di Radio 24. Alla prossima!